America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, avete sentito un audio di fuochi d'artificio, sono già cominciati barbecue, parate, fuochi d'artificio, appunto. Oggi 4 di luglio l'America festeggia l'Independence Day, la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776, 241 anni fa, dichiarazione con la quale le 13 colonie si staccarono dal Regno Unito, da un sistema monarchico, dalla Gran Bretagna, per avviare uno dei più grandi esperimenti politici della storia, la democrazia e la Repubblica Americana. Il rituale di questa festa è lo stesso, i fuochi d'artificio di Macy's sull'East River, eppure il rituale è lo stesso, ma quest'anno c'è qualcosa di molto diverso nell'aria, perché l'unità democratica di questo paese, che è monolitica davanti ai grandi eventi, è oggi sfilacciata. Si litiga sulle fake news, sulla stampa, sui media, che sono un patrimonio nazionale. Donald Trump ha persino mostrato un videomontaggio in cui prende a pugno un uomo con un volto che rappresenta la CNN. Un procuratore repubblicano, Mueller, sta conducendo l'inchiesta sul Russiagate. I democratici sono sbigottiti, ma un fanatico democratico è andato a sparare a un allenamento di baseball. Ecco, quando ho raccontato la storia di Antonin Scalise, il deputato repubblicano ferito da un democratico, un ascoltatore mi ha scritto dicendo che, se affermavo che quest'area di tensione c'è perché Trump provoca, facevo una rappresentazione di parte, raccontavo cose che riguardavano solo Trump in negativo, dissento. Non è vero, perché le notizie sono notizie, e dunque se si riferisce a qualcosa che non va, che riguardi Trump o altri, la notizia è quella. Però mi diceva, ma perché per esempio non parla della storia di Giulio Cesare al parco? Ha ragione, perché anche questa rappresentazione teatrale a Central Park nel contesto di Shakespeare merita un racconto. In quel caso l'oggetto dell'attacco invece è Donald Trump. È un racconto, secondo me, che sta bene proprio oggi, in cui l'America festeggia ma deve guardarsi allo specchio. Dunque, per onor di cronaca, in risposta a voi ascoltatori che ogni tanto generosamente mi scrivete, mi date dei consigli, voglio raccontarvela questa storia. Be patient to the last, Romans, countrymen, hear me for my cause and be silent that you may hear. Consentitemi un passo indietro, perché vi racconto anche un pochino l'America, un pochino New York. Ogni estate a Central Park il Public Theater, che è su Lafayette, allestisce spettacoli all'aperto. Dal 1992 ormai va in scena una rassegna tutte le estati dal titolo Shakespeare in the Park. Quest'anno Giulio Cesare, interpretato da Greg Henry, è vestito con una giacca blu, una cravatta rossa, gesticola in continuazione, ha una capigliatura un po' colorata sull'arancione, diciamo identica a quella di Donald Trump. Calpurnia, la moglie di Giulio Cesare, interpretata da Tina Benko, ha i tacchi a spillo e recita con un accento sloveno. E come dire, abbiamo il Donald, The Donald, e la First Lady Melania. E fin qui uno potrebbe dire, se non che succede? Avete sentito la scena. Ve ne faccio riascoltare un altro spezzone. Ecco, questo è il momento chiave. I congiurati, che poi sono dei senatori americani, perché si vede la bandiera americana, l'atmosfera è washingtoniana, e si vede questa scena molto violenta in cui questi senatori, anche loro impeccabili, vestiti di grigio, vestiti di blu, si lanciano su Giulio Cesare / Trump, lo trascinano giù dal podio, questo casca, e cominciano tutti a pugnalarlo. Schizza il sangue da tutte le parti e il Cesare Donald Trump si agita un pochino e crolla per terra con la camicia, la giacca e la cravatta ormai in un unico colore rosso. Ecco, eccessivo. Secondo me è chiaramente una provocazione che va al di là del buon gusto, e devo dire che molti democratici si sono resi, secondo me, colpevoli di scendere sulla stessa linea aggressiva di Donald Trump. Perché non dimentichiamolo, Donald Trump è stato il primo durante la campagna elettorale a fare delle minacce fisiche nei confronti di Hillary Clinton. Qui in questo caso è semplicemente un'opera teatrale. Detto questo, però, la polemica è esplosa violentissima. Anche perché non tanto tempo fa la comica americana Kathy Griffin, per chi vede la serata serata di Capodanno da Times Square la ricorderà, perché in genere è una delle conduttrici di quella serata. Ecco, è apparsa durante il suo spettacolo con in mano una finta testa mozzata e coperta di sangue, appunto, di Donald Trump. E ha postato questa foto sui suoi profili di Twitter e di Instagram. Una gag che dal suo punto di vista voleva essere satirica, ma devo dire, di nuovo, satirica non lo è. Questo vuol dire mettersi sul livello aggressivo, volgare, di non tolleranza che abbiamo visto in alcune manifestazioni organizzate dai gruppi di Donald Trump. La CNN ha deciso di licenziarla in tronco dalla conduzione del programma della notte di Capodanno. E ha fatto bene, come secondo me hanno fatto bene la Delta Airlines e la Bank of America a ritirare i fondi da questo spettacolo teatrale, perché insomma, al di là delle immagini cruente, insomma, è un'offesa molto diretta in un momento di grande tensione per il paese a una buona parte dell'elettorato che la pensa ovviamente in modo diverso dai produttori di Shakespeare in the Park. Dunque, proteste a non finire, proteste contro Bank of America, contro la Delta, contro Central Park, contro la città di New York, addirittura Breitbart News dice la città di New York ha autorizzato l'assassinio di Donald Trump. Non è così, e c'è molta differenza tra qualcuno che va in giro con una pistola e spara, come è successo sui campi da baseball, tra l'altro quello era un democratico, quindi un democratico fanatico, e tra uno spettacolo teatrale. Proprio su questo è intervenuto un grande storico, Steven Greenblatt, che scopriamo essere un esperto di Shakespeare, e non è d'accordo sulla censura, lui la chiama, perché uno spettacolo teatrale, anche nell'epoca di Shakespeare, anche quando si mozzavano le teste dei nemici, alla fine, beh, l'opera teatrale aveva il diritto di divertire o far sfogare il pubblico. La stessa Elisabetta finì col decapitare degli oppositori politici che si erano ispirati a un'opera di Shakespeare, ma non osò mai toccare Shakespeare o le sue opere, perché, come dire, l'arte e la cultura sono un po' il riflesso del nostro intimo, sono uno specchio della nostra dinamica sociale e debbono potersi esprimere in totale libertà. Altrimenti siamo in regime di censura. Detto questo, ci deve essere un limite, e io credo comunque al di là della censura, perché lo spettacolo continua, ma ciascuno può esprimere il suo parere, e io credo che questo Shakespeare in the Park con Giulio Cesare i limiti li abbia superati. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, direi che non può essere che una ispirazione shakespeariana che parte dall'amore e si chiude nel dramma. Speriamo che prevalga su tutto, beh, il dialogo e la capacità di potersi amare. The Dire Straits, Romeo and Juliet. Giulietta e Romeo. A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet then you exploded into my heart, and I forget. Movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.